Rai GR3. Verrà presentato oggi a Firenze Gramsci nel cieco carcere degli eretici, scritto da Noemi Ghetti. L'intellettuale sardo, che fu tra i fondatori del Partito Comunista, scrisse infatti quando era recluso alcune note sul canto decimo della Divina Commedia. Ascoltiamo l'autrice. La cosiddetta nota dantesca occupa uno spazio grande nei quaderni del carcere ed è tutta interamente dedicata alla lettura, alla reinterpretazione del canto degli eretici, il decimo dell'inferno. Un modo per Gramsci di parlare certamente della sua situazione politica, anche perché la dialettica con Togliatti è interrotta da tempo, c'è una dinamica anche di scontro e di abbandono in carcere da parte dei compagni del partito. Nel 26 Gramsci scrisse una lettera a Mosca in difesa dei dissidenti, tra cui Trotsky. Fu questo a condannarlo in realtà. Questo fu certamente l'emergere, diciamo, di un dissidio che era latente già lungamente da prima. Una lettera inviata da Gramsci fu sequestrata da Togliatti, invece di essere mandata al partito, si prese la responsabilità di occultarla. Questa cosa precede di poco tempo l'arresto, poi ai primi di novembre, di Gramsci, perché l'arresto ovviamente è avvenuto in Italia e ad opera dei fascisti, però c'è una strana coincidenza. La nota di Gramsci era un modo comunque per dirsi condannato all'eresia? Io penso di sì. Dante stesso aveva condannato all'esilio l'ex maestro Guido Cavalcanti e Guido Cavalcanti in 2 mesi era morto poi. Anna Maria Caresta, GR3.